piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Quest'idea è nata principalmente dal fatto che appunto ci poniamo sempre un po' il problema, no? Sappiamo benissimo che i cani principalmente sono golosi, quindi nel momento in cui ci vedono anche scartare il pacchettino del biscotto sono sempre pronti lì, però ci poniamo il problema rispetto a quello che è contenuto in quei biscotti, se a loro possa fare male oppure no. Siccome anche loro sono cambiati negli anni come siamo cambiati noi, si è presentata l'esigenza di creare dei prodotti che a loro non facessero male e che gli permettessero di togliersi degli sfizi senza problemi, andando a finire un po' all'inverso, cioè che quando apriamo questi prodotti siamo tentati noi a provarli piuttosto che darli a loro poi alla fine. E miriamo proprio al poter offrire una gamma di prodotti sani, genuini, naturali, per tutte le loro occasioni, ma anche non, anche per tutti i giorni, una valida alternativa a quello che c'è sul mercato attualmente di commerciale e di industriale. Noi già ci facemmo portatori della giusta e sacrosanta istanza dell'onorevole Brambilla per allargare la Costituzione a una maggiore attenzione a quelli che sono i nostri amici a quattro zampe. Già proponemmo una nuova costituente fatta anche di animali, perché sennò altrimenti non sarebbero ben rappresentati se non in carne, ossa, peli e zanne, anche gli animali. Ma andiamo avanti in questa battaglia segnalando alcune iniziative che in realtà fanno bene all'economia. Una volta tanto i nostri amici a quattro zampe diventano il volano per creare benessere, lavoro e occupazione anche negli umani. Avete sentito? A Palermo nel 2015 si aprì una pasticceria per cani. Beh, questo esperimento oggi è stato bissato felicemente. Anche a Brescia c'è una pasticceria per cani, pasticceria artigianale per cani, dove in realtà, in nome di un principio per cui gli animali diventeranno sempre più parte integrante della famiglia, e essendo parte integrante della famiglia cominceranno ad acquisire giustamente anche tutti i diritti, tutte le garanzie che hanno anche gli esseri umani, e quindi è giusto che il mondo dell'imprenditoria si prepari ad andare incontro a questa nuova fetta di mercato. E da Brescia c'è un ottimo esempio. Abbiamo il titolare, l'inventore della pasticceria artigianale per cani di Brescia, Marco Platto. Marco Platto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma lei già si occupava comunque in qualche maniera di catering per cani? Oh, catering per cani in che senso? Cioè faceva, si occupava di prodotti alimentari per cani? Sì, no, diciamo che la nostra azienda lavora nel settore dell'animal nutrition da 50 anni. Questo è esattamente. Io uso un termine un po' più moderno per diciamo, assimilare il più possibile i cani agli esseri umani. Se un cane deve fare, si è già visto, deve fare in qualche maniera un momento ricreativo assieme ad altri animali, è giusto che invece che pensarci noi, fare il pappone a casa, ci sia qualcuno specializzato che ci porti i prodotti giusti, immagino. Esatto, molto bene, ha colto proprio il segno della nostra iniziativa. Il nostro obiettivo è quello di creare un prodotto che abbia due aspetti, la parte contenuto che sia equilibrata, sana e corretta per loro, che quindi vada incontro alle loro esigenze alimentari, mentre la parte estetica, e da lì l'idea della pasticceria, appaga l'occhio del padrone, del proprietario, degli amici o di chi riceve il regalo da un punto di vista dell'originalità, dell'impatto emozionale. Però sono due cose ben distinte, nel senso che noi non facciamo prevaricare una per l'altra. Una cosa la salute dell'animale e una cosa il piacere dell'animale. Ecco, nella pasticceria per cani naturalmente sono solo prodotti per cani, non è che uno può andare a comprarsi le pastarelle. Le dirò di più, i nostri ingredienti sono tutti prodotti per umani, nel senso che noi acquistiamo prodotti dalla filiera, diciamo così, umana, nel senso che i tagli di carne, di pesce, le farine, piuttosto che la frutta, è tutta di matrice, diciamo così, commerciale umana. Quindi per assurdo, se io mangiassi il canettone gourmet con anatra e arancio, oppure il candoro, non mi fa male? Assolutamente no, non fa male a nessuno, perché nelle giuste dosi, nelle giuste quantità, sono prodotti equilibrati, bilanciati e che non hanno assolutamente nessuna. Ecco, come è organizzata una pasticceria per cani? Io vedo soltanto la foto della vetrina, non l'ho visitata. Quando entra il cane, può scegliere il cane il prodotto? Sceglie di sotto o sceglie il padrone per il cane? Ma guardi, noi siamo abbastanza innovativi perché siamo, è una pasticceria per cani, ma facciamo entrare anche gli umani. Quindi almeno questa concessione. Abbiamo invertito il principio. Sa anche in tutti i negozi c'è l'umano e in fianco c'è il cane che può entrare. Noi abbiamo fatto il cane in fianco l'umano che può entrare, abbiamo ribaltato il concetto. Ah, mette una seggiolina fuori per fare l'umano rimane qui, io rimango qui. E lo leghiamo alla porta. No, a parte le battute, chiaramente possono entrare entrambi e l'umano e il padroncino a seconda delle necessità, delle esigenze. Ecco, i prodotti sono altezza muso del cane o sono un espositore entrambi, altezza? Entrambi. Quelli che stanno in vetrina all'interno sono altezza cane, mentre quelli che sono, diciamo così, al banco sono altezza umana. Quindi il cane se scodinzola davanti al candoro è quello che vuole. Assolutamente, anzi adesso dovremo correre ai ripari perché la nostra vetrina, essendo appunto altezza cani, abbiamo rischiato più di una volta che venisse attaccata, perché i prodotti sono lì in bella vista e ovviamente i cani non hanno, ci pensano due volte. Senta, so che qualcuno l'ha criticata per questa iniziativa, qual è stato il motivo dell'attacco, solo per capire? Ma guardi, sinceramente non lo so e non voglio neanche entrare nella polemica, perché come tutte le cose di questo mondo ci sono i fautori, i detrattori, i sostenitori e quant'altro. Però scusi, mi faccia capire. Lei, grazie alla pasticcera per cani, degli esseri umani hanno lavoro, ha creato dei posti di lavoro. Quindi evidentemente c'è un indotto forte. Cioè, assolutamente. Grazie ai cani gli umani hanno posti di lavoro nuovi. Assolutamente, bravissimo. Ha colto proprio nel senso la mia, io sono un imprenditore e l'obiettivo è quello di creare business ma dare posto di lavoro. Per me la più grande soddisfazione è vedere i miei collaboratori bravissimi che ogni giorno hanno soddisfazione in quello che fanno, e quindi voglio dire, la polemica è sterica, però ci sta, nel senso che da alcune considerazioni, da alcune critiche si può anche prendere spunto per migliorare, per fare delle cose ma infatti nuove, guardi, lei non crederà alle sue orecchie tra poco, Marco Platto, proprio dalla sua iniziativa noi abbiamo pensato di allargare il suo esempio ad altre categorie merceologiche. Lei ha dato l'esempio, ha creato la pasticceria artigianale per cani, ma non possiamo fermarci qui, non basta qui, noi andremo molto avanti. Intanto la saluto e ascolti. Arriva da Brescia un'illuminata iniziativa per cinofili, la pasticceria artigianale per cani. Finalmente anche i vostri adorati amici latranti potranno godere del pranzo domenicale in famiglia o festeggiare degnamente il loro compleanno. Ecco per loro i cantuccini con le mandorle, i biscotondi e la birthday dog cake. A Natale li farete impazzire con il candoro farcito, oppure con il canettone gourmet con anatra e arancia. Ma cari amici ascoltatori, oggi ci chiediamo, oltre alla pasticceria per cani, secondo voi che cosa renderebbe più lieta la vita del vostro Scottish Terrier? Quale nuovo business potrebbe avere l'approvazione piena di pastori tedeschi, chihuahua, setter inglesi e bassotti? Chiamateci ora all'800 24 0024 e diteci la vostra. 800 24 0024, qui inizia il consueto sondaggio di Melo. Noi abbiamo fatto la proposta di alcune categorie di esercizi commerciali, di servizi, che finora sono stati miseramente riservati soltanto agli umani. E è giusto, con il progresso sociale che sta avvenendo a favore dei nostri amici pelosi a quattro zampe, che siano aperti anche per cani. Noi facciamo alcune proposte, ma però vorrei che voi integraste. Cosa manca ancora? E telefonate, e faremo su questo un importante rilevamento socio-antropologico. Cosa manca ancora? Cosa non offre il mercato per i nostri amici cani? Intanto noi vi proponiamo qualcosa. Vi facciamo noi alcune proposte. Discoteca per cani. Quattro salti e due annusate al tempo di musica. Vuoi portare la tua cucciolotta in calore in un ambiente raffinato ed esclusivo, dove coronare il martellante richiamo della natura? Al Disco Bau troverai un ambiente adatto, il cibo giusto eventuale, assistenza veterinaria per la monta e, se servisse, anche un secchio d'acqua per farvi staccare. Non c'è niente di strano. I cani hanno le loro usanze, hanno il loro modo di conoscersi, il loro modo di amarsi, il loro modo di accoppiarsi. Oggi questi atti vengono consumati nella più grande tristezza, si va dal veterinario, c'è un accoppiatore specializzato che cura i particolari. No, quando bisogna fare la monta canina e la cagnolina in calore e il cagnolino giustamente deve coronare il loro sogno d'amore, perché portarli da un veterinario? Portiamoli in una discoteca per cani, dove c'è una musica adatta, del cibo adatto, immagino ci si potrebbe fornire dal signore che ha parlato poco fa, da Marco Platto, che potrebbe darci dei cibi afrodisiaci per cani. L'assistenza discreta dietro un separé del veterinario, e naturalmente, se poi ci fosse bisogno, perché il cane, come suol dirsi, fa nappa, cioè rimane attaccato, una secchiata d'acqua non mancherebbe, ma acqua naturalmente minerale. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Senta, io prendo spunto perché vorrei aprire dei bagni pubblici solo per cani a pagamento. Ottima idea, ottima idea. Chiaramente invece della monetina ci va il croccantino, altezza cane, voglio dire. Quindi un cagnolino dovrebbe privarsi del croccantino per andare a fare il bisogno nel bagno pubblico. Ma i cani in questo lo farebbero ben volendo. Lei come funzionerebbe, diciamo? Uno mette il croccantino e può fare sia quella piccola che quella grossa, tutto può fare. Sì, sì, in base anche alla grandezza va misurata anche certo, il croccantino. Quindi più croccantini sono, più, voglio dire, bisogni fa. E come lo chiamerebbe? Sarebbe interessante questa cosa qua. Questo è da lavorarci su, perché il nome potrebbe anche trarre vantaggio per chi passa. Giustamente, lei sta formalizzando il brevetto di questa idea. Questo eviterebbe anche una sorta di disagio sociale, di pregiudizio sociale nei confronti dei nostri cari amici pelosi a quattro zampe, quando lasciano cacca e pipì per strada, che è colpa dei padroni, mica loro. Naturalmente questo, quando uno la pesta, poi rimane attaccata alle suole, va a lavorare o va magari a un convegno amoroso, rimane quell'odore sgradevole, entra in macchina, c'è la moquette del tappetino che rimane impregnata. Insomma, cose brutte per i cani. Con il suo bagno pubblico per cani non sarebbe più nessun problema. Esattamente. Beh, è una grande idea, lei è sulla linea giusta, noi andiamo avanti, abbiamo pensato non soltanto ai bisogni materiali, anche a quelli spirituali. Nora, buongiorno. Buongiorno. Velocemente. Sì. Lei cosa farebbe? No, io volevo solo segnalare qualcosa che quest'estate mi ha lasciato così perplessa alle vita, perché in un paese vicino a dove abito io ho visto una gelateria per cani. Ottimo, quindi... certo. Perfettamente in linea con quello che stiamo dicendo noi. Il cane lecca il gelato, logicamente, il gelato con dei gusti adatti ai cani o gusti anche quelli degli umani? Questo non l'ho appurato, perché sono rimasta così perplessa, ho detto, aprono la gelateria per cani, non sappiamo dove andare ad arrivare, perché ora i marciapiedi sono dei cani. Beh, mica, sono dei cani e degli umani. Per le strade, sì. Bisogna fare lo zigzag perché... i padroni non si degnano di... Ma non più quando saranno messi a punto i bagni pubblici per cani che propone il nostro amico ascoltatore. Senta, ma erano coni o coppette? Solo per sapere. Io ho visto solo la pubblicità, c'era un grande cartello all'esterno. Gelateria per cani. Sì. Quindi può darsi anche che facessero gelato. Comunque se crede quando ritorno magari... No, si informa, soprattutto mi piacerebbe sapere che gusti sono. Allora, noi abbiamo pensato non soltanto ai bisogni materiali, senza che questo venga considerato un atto blasfemo, ma perché non dobbiamo pensare che i cani possono avere anche una loro dimensione spirituale, anche se non propriamente legata a una religione? Il cane ci vede che noi comunque... Non tutti noi, ma gran parte di noi sono praticanti, seguono un'idea che è trascendente, una fede religiosa. Perché ai cani questo deve essere negato? Quando ci siederemo al tavolo della Costituente e i cani chiederanno anche loro una sorta di concordato tra cani e umani, questo sarà per loro un passaggio fondamentale. Chiesa per cani. Anche voi amici pelosi a quattro zampe siete figli di Dio. Anche per voi il giusto conforto di un prete che vi confessi per le vostre innocenti marachelle. Anche voi potrete trovare serenità e raccoglimento con in sottofondo le belle canzoni di Suor Sorriso. Anche voi avrete modo di salvarvi l'anima. Dominique, che con la sua semplicità lavora in povertà. Va dovunque con suo amor per parlare del Signore, per parlare. Sembra già di vedere sgambettare felici, iratici e risolti nei loro problemi esistenziali i nostri amici a quattro zampe. Potranno finalmente liberarsi del fardello delle loro colpe. Ma che colpe volete che abbiano mai i poveri cagnolini? Roberta, buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, io telefono da Latina e così, cioè io sento sempre la sua trasmissione e mi interessa molto questa dei cani, perché io ho un Cavalier King di 9 anni e qui a Latina non abbiamo un contesto favorevole per quanto riguarda le aree recintate. Non può farsi degli amici, non può farsi. Come? Non può farsi degli amici il suo cane. Appunto, tra l'altro, per socializzare e poi perché no, non mettere un chioschetto come ce l'hanno, ci sono nei parchi dove si portano i bambini. Certo. Perché no, non mettere un chioschetto dove ci sono i gelati per loro, i biscotti per loro. Anche la porchetta, se vuole, una bella porchettina per cani. Sì, come no, perché certo. No? E non quindi, ecco, insomma, dargli anche... Dei luoghi, ma la discoteca per cani potrebbe andare bene, lei come progetto, noi abbiamo fatto l'idea della discoteca per cani, per farli socializzare, andare in una discoteca dove magari, anche se è il momento della monta, possono farlo in un ambiente più bello, meno rigidamente clinico, come il retrobottega di un veterinario, no? Esatto. Lei dove lo porta a montare il suo cane? Io veramente ho varie difficoltà perché lui è un cavaliere king, però non ha il pedigree. E nessuno lo vuole? Mi trovo una difficoltà perché io lo vorrei far accoppiare. Però bisogna fare anche una battaglia sociale per evitare questa discriminazione. Ora, il suo cane deve rimanere all'asciutto, cioè non può avere il piacere dell'accoppiamento solo perché non ha i quattro quarti nobiltà. Esatto, e poi anche perché a me piacerebbe comunque avere un cucciolo suo, no? Perché poi lui un giorno mi lascerà, speriamo certo. Più tardi possibile. Ma quando mai? Fa mille anni, certo. Ecco, allora vediamo, dica esattamente, io lanciamo un appello. Esiste un proprietario di cane femmina dello stesso genere della nostra amica Roberta che passerebbe sopra al fatto che sia... senza il necessario supporto della sua nobiltà di sangue, un bel cane però il suo cane, no? Certo, Gagliardo. Sono presente qual è, no? Certo. È il famoso che storicamente era il cane del re d'Inghilterra. Certo, ed figuriamoci. È un cane di compagnia, non solo di compagnia, ma è un cane che Quanto tempo ha il suo cane? Quanti anni ha? Ah, quasi 9 anni. Quindi... 9 anni non ha mai consumato? No, vorrei, ecco, io sto sulla zona di Latina, magari qualcuno mi contattasse. Anche per un piccolo sfogo magari, soltanto per quello. Va bene. Diciamo anche per avere... Se viene il cucciolo è meglio, 9 anni, poverino, ormai è ora che lo faccio. Grazie, 800 24 00 24, stiamo aprendo al mondo una nuova prospettiva di civilizzazione. A tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Melog. Chirurgo estetico per cani. Perché mai il bassotto non può allungarsi le gambe? Perché lo Sharpei non può farsi uno stiramento della cute? Avrà diritto una barboncina allo sbiancamento anale? Un Doberman alla liposuzione? Può aspirare una piccola Husky a 2 taglie in più di reggiseno? Perché mai un Bull Terrier non dovrebbe ambire al rimodellamento scrotale? Perché no? Visto che loro sono così esposti nelle loro parti intime, finché non avranno anche loro diritto di mettersi mutande, pantaloni, calzini, scarpe, è giusto che si facciano questo intervento che oggi va molto di moda, acido ialuronico nel sacco scrotale per avere una sorta di estetico gonfiore. Anche loro hanno diritto di averlo. Mi stanno molto criticando gli ascoltatori dicendo: ma cosa succede, ti sei rincoglionito, e chi sono queste persone che propongono queste cose? No, noi l'abbiamo proposto, noi siamo così avanti da proporre, anticipare quello che sarà un passo necessario dell'umanità e considerare che anche i cani avranno a loro disposizione tutti gli esercizi merceologici, i servizi che hanno anche gli umani. Guardate, il business si sta aprendo a questo mondo e quindi è giusto andare avanti. Bruno, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Cosa propone? Terme per cani. Terme per cani. Ha già in mente il progetto, il modello? Come dovrebbe essere? Il modello sarebbe, purtroppo, per fortuna, uguale a quello degli antichi romani, cioè il frigidarium, tiepidarium, canidarium, e poi alla fine il massaggio finale. Massaggio finale e trattamento di cani, per esempio, con artrosi, con artrite, in vasche particolari, a temperature particolari. Ma questo credo che potrebbe essere una cosa buona. Ma anche fanghi, perché... anche trattamento con i fanghi. Sì, perché no, certo. Tra l'altro lo accompagnerebbe il padrone, per cui in realtà... Umani e cani nella stessa vasca, giusto? Ma invece di lasciarli da soli a lavare, che vedi ste fasce desolate, tu lo accompagni... Pensa che bello, cani e padroni dentro il bagno turco, nella sauna. Sembrava una buona idea. Certo, l'odore di pelo di cane bagnato non è proprio il massimo, ma magari si potrebbe fare una sorta di ambientazione olfattiva che si supplisca a questo piccolissimo problema che il cane con il pelo bagnato c'ha un odorino che non è niente buono. Bruno ha parlato, Giuseppe. Sì, sono Giuseppe, buongiorno. Cosa propone? Cosa propone lei? Io propongo, ho telefonato prima dalla signora Roberta, la signora Roberta parlava della necessità di... Io proponevo un'agenzia matrimoniale per cani. Giustamente, certo. No? Ecco, e poi anche un'agenzia di pompe funebri. E poi un'altra cosa. Giustamente, scusi, perché queste due fasi importantissime nella vita di un cane, che è la fase dell'amore e la fase della morte, vanno in qualche maniera equiparate a quello che è la ritualità che gli umani si sono imposti per elaborare questi momenti. Quindi, c'è un business lì. Io sono vecchio, ma se fossi giovane. Fra un po' serve a lei, però, scusi, si sbrighi a farlo. Si sbrighi a farlo allora. Sì, vabbè, sì, ascolti, però c'è una cosa molto, molto grave che vorrei sottolineare. Sabato scorso, se non vado errato, un addestratore di cani ci ha lasciato le penne. Sì, lo so, l'ho visto. Mi dispiace, però sa, è un argomento così abbastanza, va un po' in contrasto. Fa ridere, però. No, non fa ridere. Oddio, che una persona è stata uccisa da un cane non fa solamente ridere. Non fa ridere l'argomento. E succede molto spesso. Oggi parlo di un altro argomento, però. Non posso non parlare di treni perché qualcuno va a finire sotto la ferrovia. È un addestratore. Avrà in qualche maniera anche lui valutato che fare quel mestiere comporta anche quel tipo di problema. È molto grave molte volte quando ci sono dei cani che non sono addestrati, sono dei cani feroci, sono dei cani che hanno in realtà una poca possibilità di moderare i loro istinti e fanno delle stragi di persone. Questo accade, però non è che nell'universo mondo questo mi impedisca di parlare oggi quello che è un progetto legato ai cani. Grazie Fausto. Allora... Marco ha parlato? Sì. L'ascolto Marco. Ecco, io avrei una proposta eccezionale, cioè è una cosa seria. Siccome la signora di prima col collier che non ha proprio il pedigree e praticamente non può portarlo alla monta, sì. Io farei, non so, prendiamo, che ne so, 12-15 bastardine. E poi chi purtroppo non ha... Cioè un casino per cani, diciamo, praticamente. Che capperi, è giusto, no, ci vuole. Ma perché insomma. No, scusi, no, perché no? Cavoli, ma scherziamo, è un cioè, problema. Cioè, però non devono essere... Scusi un attimo, Marco, purché non siano delle schiave? Non essere delle cagnoline che abbiano tutte, diciamo, i vantaggi? È una professione, certo. Come un assistente sessuale per cani, certo. Ecco. Cioè, però mi raccomando bastardine, perché così almeno se uno proprio non è il pedigree, dai. Sì, però carine, magari carine, gli mancano i documenti, però senza documenti. Fiocchettini, dai. Vabbè, i documenti dopo vediamo se vengono dalla Bulgaria, dalla Romania. Ah, faglieli finti, dice addirittura? Sì, una roba proprio... Ah, proprio per dare l'impressione. Dai. Ma no, ma secondo 10, me... 15 euro, dai, to, via. Beh, no, infatti è una cosa, ci vuole un locale adeguato, con musica, con intrattenimento, che non sia una cosa brutale, proprio uno va lì e salta addosso la cagnolina, dove il cane ha modo di socializzare se c'è questo bisogno di farlo. Le cagnoline abbiano tutto il rispetto, assistenza medica, pensione, tutto naturalmente. Va bene, mi sembra giustissimo. Andiamo avanti con le nostre proposte, ce n'è un'altra che secondo me incontrerà il favore del nostro pubblico. Banca per cani. È sempre più frequente che qualche vostro padroncino, quando muore, lasci i suoi averi al migliore dei suoi amici. Anche un cane ha bisogno di consulenti finanziari. Anche un cane ha diritto di fare i giusti investimenti per il suo patrimonio. Anche un cane potrebbe aver bisogno di un mutuo per la prima cuccia. Anche un cane ha diritto a un prestito agevolato con cessione del quinto dello stipendio. Siamo in una radio a taglio economico-finanziario e questo è un settore da cominciare a approfondire, fare dei pacchetti mirati proprio ai cani. È frequente che vengano lasciati anche patrimoni consistenti ai propri animali. E come li amministrano? Cosa ci vuole? Un amministratore? Il cane non può amministrarli da solo? Beh, ci vuole un consulente che lo aiuti. Se il cane è farsi la cuccia, è giusto avere dei sostegni, degli aiuti. I cani vanno incentivati a poter fare la loro cuccia. Perché non possono farsi la loro cuccia? Non ci sono più telefonate? Ma è caduta l'ultima telefonata. Beh, noi andiamo avanti e vi proponiamo un'altra nostra proposta. Cinema per cani. Finalmente una sala cinematografica dove è permesso fare la pipì contro i muri, dove si può guaire e abbaiare nei momenti più emozionanti, dove invece che patatine, popcorn e bomboniera, nelle pause si vendono ossa e croccantini. Una ricca rassegna dei sempreverdi, da Lessi a Rintintin alla carica dei 101 e una nuova esclusiva produzione specifica. Alcuni dei titoli: Canerentola, Canatrix, Il canino 1 e Il canino 2, Il diavolo veste cane, Titanic, le avventure di Canocchio. 800 24 00 24. Stiamo abbracciando tutti i campi espressivi interiori della piacevolezza di un cane. Mi sembra più di così sia impossibile fare, a meno che Fausto ha un'altra idea. Fausto. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Beh, permetto che l'ascolto ancora dei tempi della RAI, prima di Aldo Grasso. Abbiamo una bella idea, come il programma della De Filippi, uomini e donne, farei cani e cagne. Cani, dove cani, la cagnetta si mette sul coso e si mostra. Con il cane dopo, tronista, sì. Cane tronista. Sì. Sarebbe cioè perfetto. Il cane padronista o viceversa, ecco. Le sterde con i cani che li mandano in un bel canile, si vedono. Esatto, si fanno belli e tutto, no? Ah, e perfetto. Dopo farei lì. Breaking news. Allora, la notizia non arriva certo imprevisto o imprevedibile. C'era il Consiglio federale della Federcalcio, è in corso il Consiglio federale della Federcalcio e il presidente della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo Tavecchio, si è dimesso proprio in questo momento. Avrebbe rischiato la sfiducia da parte delle componenti del Consiglio federale. Ha giocato d'anticipo e ha rimesso il suo mandato. Ora si tratta di dipingere, di capire nuovi scenari. Lo faremo in seguito. Melog. Arriva da Brescia un'illuminata iniziativa per cinofili, la pasticceria artigianale per cani. Finalmente anche i vostri adorati amici latranti potranno godere del pranzo domenicale in famiglia o festeggiare degnamente il loro compleanno. Ecco per loro i cantuccini con le mandorle, i biscotondi e la birthday dog cake. A Natale li farete impazzire con il candoro farcito oppure con il canettone gourmet con anatra e arancia. Ma cari amici ascoltatori, oggi ci chiediamo, oltre alla pasticceria per cani, secondo voi che cosa renderebbe più lieta la vita del vostro Scottish Terrier? Quale nuovo business potrebbe avere l'approvazione piena di pastori tedeschi, chihuahua, setter inglesi e bassotti? Chiamateci ora all'800 24 00 24 e diteci la vostra. Allora, noi abbiamo proposto discoteca per cani, chiesa per cani, banca per cani, chirurgo estetico per cani, cinema per cani. Ci è stato proposto dal pubblico sauna per cani, gabinetto per cani, format televisivi per cani, cani e cani come uomini e donne, agenzia matrimoniale per cani. Ma andando avanti, Walter, cosa propone? Allora, buongiorno. Buongiorno. Io ho ascoltato prima il contributo della radioascoltatrice che non riusciva a trovare un partner per il proprio cane, sì. Non riusciva a far accoppiare quel cane, e allora ho avuto un'idea, un'illuminazione, e ho pensato che sarebbe il caso di aprire delle case di appuntamento per cani. È stato già un po' detto, uno no. Proponeva un casino per cani, cioè un bordello per cani con cagnoline senza pitigrì, però disponibili a prestarsi come... Ma per entrambi i sessi. Vabbè, cioè, giustamente, ma non ci possono essere dei cani gay, scusa. Avranno diritto anche loro, certo, chiaro, di tutti i tipi, sia cagnoloni che cagnoline disposte. Lei propone un centro massaggi per cani, però vedo della scheda. E anche un centro massaggi per cani, perché giustamente... Beh, tutti i cani cinesi, Sharpei, Chihuahua, adesso no, Chihuahua non è cinese, i cagnolini, diciamo, come ci sono i massaggi cinesi che fanno il massaggio romantico per cane. Anche perché poi, sai, i cani assorbono gli stress, i nervosismi, certo, e anche dei padroni. Hanno bisogno di relax. Il massaggio romantico, rilassante, sicuramente aiuterebbe anche il cane ad avere una qualità di guida. Di saloni di guida, massaggi cinesi per massaggio romantico per cane. Macchina. Certo, ma no, molto chiaro Walter, no, beh, giustamente. Secondo me se lo aprono questo già avrebbe clienti comunque. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno, io chiamo da Genova e la mia idea che ho già messo in atto è una gastronomia artigianale per animali domestici. Praticamente si produce tutto in modo naturale, casalingo. Certo. Ma anche vegano, ma anche vegano? No, vegano no, perché no. Fondamentalmente il cane non è vegano. Gli piace l'osso e la bistecca. Gli piace l'osso, la bistecca, la carne. Sì. E anche al gatto. La salsiccia, assolutamente. Sì. Vabbè, un gourmet, cosa farebbe? La differenza rispetto a quello che è già sul mercato, quale sarebbe? La per differenza capire? È che non vengono utilizzati additivi, non certo. Vengono utilizzati conservanti, glutine, che è stato riscontrato negli ultimi anni, che hanno... Mi faccio un esempio di una ricetta che lei proporrebbe. La ricetta può essere il biscotto fatto in casa artigianalmente con fecola di patate, farina di piselli, carne. Certo. E uova. Biscotto e piselli. Biscotto e piselli, sì. È la morte sua. È la morte sua. e lei ha già brevettato questo suo format? Sì, io sono già aperta a Genova. Ah, già funziona lei? Sì, assolutamente. Ah, quindi non è, io pensavo fosse una delle tante cazzate, diciamo noi, no, è vero, esiste. No. Beh, questa cazzata in realtà... Questa è una cazzata, ma questo però, scusi Antonella, uscendo dalla facezia, io naturalmente scherzo, la discoteca per cani, la chiesa per cani, sì. Però lei mi dimostra che in realtà non è poi tanto uno scherzo, già un mercato c'è di queste cose. Un mercato sì, c'è, perché comunque ormai gli animali fanno parte, soprattutto il cane e anche il gatto, ormai fanno parte un po' della nostra... E quindi le persone vengono famiglia. Da lei a prendere il vengono pacchettino. Vengono a prendere biscotto, vengono a prendere torte di compleanno, giustamente, vengono a prendere la salsiccia di tacchino naturale per... far sì che il cane possa sostituire e queste stesse persone, scusi Antonella, visto che lei andrebbero alla discoteca per cani, alla chiesa per cani, alla banca per cani, farebbero fare i ritocchini dal chirurgo estetico per cani, sarebbe una fetta di mercato aggredibile secondo lei? No, io non posso saperlo, perché comunque beh, mi occupo di intuizione. Però magari sì, qualcuno potrebbe essere. Ma se lei fornisse il pacchetto, guarda, ti do il biscottino, ma ti do anche un ticket per entrare nella discoteca per cani. Potrebbe funzionare. Magari sì, perché no. Perché ma non la sento tanto entusiasta, è legata al suo perché io sono legata piccolo molto business. A quello che è l'animale, nel senso perché... Forse a volte si tende un po' troppo ad umanizzarlo. No, invece lei che fa i biscottini, scusi, biscottini con la soia. È diverso, perché si pensa Il cane si mangia le carogne, è tutto contento, ma che gliene importa? Ma che gliene importa al cane? Noi usiamo l'interiora. Cioè, se il cane vede un gatto spiaccicato da una macchia, se lo mangia, se lecca i baffi, perché gliene frega lui? Cioè, i cani si mangiano la stessa loro cacca, che gliene importa loro del biscottino, scusi. Vabbè, comunque andiamo avanti e facciamo finta che è bello. Marco, buongiorno. Buongiorno, pronto? L'ascolto. Buongiorno Nicoletti, prima volta che chiamo, scusi, forse sono un po' emozionato. Sì, si rilassi. Solo questo volevo dire Nicoletti, le ho sentite veramente di cotte e di crude. Apprezzo l'ironia con cui è stato affrontato il tema. Ma io sono serissimo, non sono io. Io ho colto un po' di ironia, se fossi dalla parte... No, perché un po' di rantolo, perché un po' di raucennine. No, a parte il rantolo... Non è che mi viene da ridere, mi viene da tossire, per questo sembra. Se io fossi, sarò brevissimo, sì. Se io fossi dalla parte di tutti questi invasati... Perché invasati? Che parlano in questo modo, mi sentirei anche un pochino preso in giro dal suo modo di esporre amici, cani... Ma sono punti di vista e tutte queste cose. Perché scusi, non ha diritto un cane a avere un ritocco estetico dal momento che ha diritto ai biscotti? No, Nicoletti, il cane è cane. Certo. E io il cane è con orgoglio. Cane, e io mi vergogno e mi dispiace dirlo, mi dispiace, ma con tutta la gente che c'è in difficoltà nel nostro paese e gli affamati che da tutto il mondo vengono qua. Pensiamo e gli affamati che vengono qua vedono la pasticceria per i cani, non ce l'ho con la pasticceria. Però si calmi. La pasticceria per cani, abbiamo detto, dà lavoro a persone, crea indotto, crea ricchezza, fa progredire comunque le persone che lavorano in quello. È la maniera per trovare lavoro. È finito medica. Tutto. Sì. Aspetta, Elvira, chiudiamo con Elvira. Cosa vuol fare velocemente? Clinica? Clinica psichiatrica per cani. Giustamente, mi sembra giusto, anche la psiche dei cani va curata in qualche maniera, i cani possono avere comunque dei problemi neurologici, quindi è giusto che ci pensi qualcuno. Non ve la prendete, state tranquilli, calmi, cambia niente tanto tutto rimane com'è, non è che cambiamo il mondo. Alla prossima.